Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Riparte l'eterna polemica firmata Santoro, appena ricomincia il suo programma fatto su misura, anno zero. Ridicole le affermazioni di Travaglio, secondo il quale Berlusconi interverrebbe dall'alto per impedire la presenza di certi giornalisti nelle trasmissioni televisive. Affermazioni fuori luogo, visto che il più acerrimo nemico di Berlusconi andrà certamente in onda senza alcun problema. Mi sembra piuttosto una manovra studiata apposta da Santoro per farsi pubblicità gridando alla censura, come è solito fare del resto. È l'unica pubblicità che riesce a far sì che qualche appassionato di scandali si interessi ad Anno Zero. Voglio fare una profezia. Nella prima puntata di Anno Zero, Travaglio non si presenterà e il buon Santoro lo chiamerà a casa per inscenare uno scandalo. Nella puntata successiva, con rullo di tamburi e luci della ribalta, il nostro Marco Travaglio, l'escluso, si presenterà a sorpresa in una veste nuova, studiata appositamente per affascinare gli ingenui spettatori di sinistra appassionati di complotti. Perché, parlando di complotti, lui è il primo a saper realizzare piani ben elaborati, sempre solo per fare audience. Massimo. Perché se David Letterman scherza sul colore della pelle di Obama tutti ridono e se lo fa Berlusconi tutti si indignano? Vittorio. Scrivo a proposito del terribile omicidio commesso da un padre verso la figlia marocchina, caso già successo a Brescia qualche anno fa. Vorrei evidenziare come anche il presidente della Camera, Gianfranco Fini, negli ultimi tempi abbia richiamato il popolo all'integrazione con gli extracomunitari. Ma siamo sicuri, signor presidente Fini, che tutti gli extracomunitari vogliano comportarsi allo stesso modo? Christian, Bergamo. Sono contrario al burka, come sono contrario che si parli dei diritti religiosi dei musulmani anziché parlare dei loro doveri. Che se ne tornino alle loro case e ci lasciano in pace a casa nostra. Il Medioevo è passato da diversi secoli e noi vogliamo andare avanti e non indietro. Michele. Scrivo a proposito dell'intervento alla vostra radio di Don Giorgio De Capitani, il prete della chiesa di Pietra di Monte in provincia di Lecco, che parlando dei soldati italiani morti a Kabul li ha definiti mercenari, farabutti e criminali. Magari non era il momento di dire quel che ha detto, ma chi può negare che questa ipocrisia d'oggi ci fa chiamare la guerra missione di pace e definisce l'invasione come portare la democrazia? Quel che è certo è che poi i morti diventano eroi. Hanno travolto tutto questi padroni del potere e ci fanno credere, fare, mangiare e morire come pare a loro. Francisco, Porto Sant'Elpidio, provincia di Ascoli. Vorrei far notare a Don Giorgio che le forze armate sono un importante componente di ogni Stato democratico. Siamo sicuri che uno Stato democratico possa farne a meno? Le forze armate sono state mandate in missione in Afghanistan da un governo democraticamente eletto. Definire le forze armate inviate da un governo democratico in missione dei mercenari è quantomeno superficiale. Spero che i suoi superiori ecclesiastici pongano fine, con le buone o con le cattive, a queste stupide esternazioni. Gianluca, Cernusco sul Naviglio. Stavo ascoltando la vostra radio e ho avuto modo di sentire il parroco. Ma chi è questo parroco? Ma si rende conto di quello che dice o cerca solo visibilità mediatica? Bah, poveri noi. Fabio. Una persona può diventare un eroe anche semplicemente andando incontro a una fine valorosa, che glorifichi la sua esistenza attraverso la sua ultima azione. Esempi odierni sono il sacrificare la propria vita per salvarne un'altra, compiere un gesto per l'onore della patria che mette in conto in primis di perdere la vita, o per proteggere la propria famiglia, sempre mettendo in conto il sacrificio della propria vita, e così via. L'eroe, infatti, il più delle volte, se non tutte, è un mortale, e perciò si distingue dagli dèi avendo un'arma in più per aumentare la sua eccezionale aurea, la propria morte. Non si può chiamare eroe una persona o un soldato vittima di un'aggressione o azione militare che comporti la sua morte semplicemente perché, per sua sfortuna, era lì in quel momento e non aveva nessuna parte attiva nell'impedire o contrastare con i suoi mezzi il fatto criminoso. A Napoli, nella piazza dei Martiri a Chiaia, sorge l'imponente monumento ai martiri napoletani, il cui alto obelisco è circondato da 4 leoni. Ciascuno dei leoni ha un proprio significato simbolico. Quello morente ricorda i caduti della rivoluzione napoletana del 1799, quello trafitto dalla spada e i carbonari del 1820, mentre gli altri due, dall'aspetto feroce, i caduti liberali del 1848 e i garibaldini del 1860. Alfonso. Credo sia eccessivo lo spazio dedicato ai caduti in Afghanistan. Questi ragazzi sono dei volontari, sono caduti come gli operai che ogni anno, e sono centinaia, lasciano la loro vita in una fabbrica e con un compenso economico molto, ma molto differente. Assistiamo a dirette, minuti di silenzio, aperture di programmi nel ricordo dei caduti, pagine e pagine sui giornali. Per chi lascia la vita a un tornio ci si ricorda solo in casi eclatanti, altrimenti nulla. Questi soldati sono morti per l'onore dell'Italia. Gli operai per cosa muoiono? Luigi, operaio, Caserta. Mi piacerebbe sapere se nelle procedure di guerra si è pensato alla distanza minima che deve essere mantenuta fra due autoblindo Lince in missione. Mi sembra veramente da ingenui non aver previsto che un'autobomba, inserendosi tra le due autoblindo, avrebbe facilmente potuto fare il doppio del danno. Ivan Giuseppe. Mi stupisco della facilità con cui la parola mercenario viene ultimamente impiegata. Il mercenario è fedele solo al denaro. Non ha limiti e vincoli se non quelli dati da chi lo paga e dal teatro di operazione. Si può macchiare dei più efferati delitti senza che alcuno possa riuscire a chiedergliene conto. Addirittura difficilmente si riesce a dimostrarne la presenza e la capacità operativa. Agiscono spesso nell'ombra e tra le pieghe oscure della legalità. I nostri uomini impiegati in Afghanistan hanno giurato fedeltà alla Costituzione della Repubblica Italiana. Hanno mandati internazionali da rispettare e dentro i quali operare e convenzioni dei diritti umani da osservare. Hanno regole di ingaggio che sono spesso concepite in senso conservativo per la loro incolumità, ma soprattutto per quella dei civili dei paesi in cui si trovano a operare. Se sbagliano, molto probabilmente saranno sottoposti a inchieste, probabilmente processati e, se colpevoli di crimini, condannati. I nostri soldati, no, non sono dei mercenari. Alessandro. Buongiorno, direttore. Le racconto brevemente la mia storia. A 16 anni ho iniziato a lavorare. A 18 ho cominciato a frequentare le serali e nel giugno 2008, dopo i canonici 5 anni, mi sono diplomato. Nel settembre 2009, dopo essermi licenziato, mi sono iscritto alla facoltà di economia di Bergamo. Avendo percepito per metà anno un mio reddito e avendo entrambi i genitori in pensione, ho dovuto pagare l'intera retta, circa 1.300 euro. Non me ne lamento. Il servizio dell'università è ottimo e dopo 8 anni di lavoro ho i risparmi necessari per sostenere una spesa simile. L'altra sera ero al bar con degli ex colleghi per un aperitivo. In un tavolo vicino, due ragazzi ordinano una bottiglia, penso, di champagne. Li conosco di vista e so che sono di famiglia facoltosa, quindi la cosa non mi stupisce. Se la possono permettere, meglio per loro. Poco dopo il barista si avvicina ai due ragazzi e chiede a uno dei due: «E tu cosa fai?» Questi risponde: «Studio a Milano, relazioni pubbliche». La discussione prosegue e il barista chiede: «E diretta quanto paghi?» Il ragazzo risponde: «Guarda, mio padre è commercialista, quindi io pago il minimo, come tutti i barboni». Per alcuni secondi ho avuto difficoltà a respirare per la rabbia. Il figlio di un commercialista paga la retta minima quando il reddito del genitore è per me inimmaginabile. E, retta a parte, se questo commercialista dichiara un reddito del genere, quanto evade di tasse? Com'è possibile una cosa del genere? Io, che quando lavoravo arrivavo a 1.200 euro al mese, con 40-50 ore di straordinari al mese, e tutti i mesi mi trovavo in busta 500-600 euro di trattenute, ho dovuto pagare l'intera retta universitaria. Con quale etica lavorerà questo commercialista? Che consigli darà ai suoi clienti partita IVA? Gli dirà di essere onesti e di pagare tutte le tasse? Distinti saluti, Roberto Bergamo. Nei tanti discorsi fatti sull'immigrazione e sui respingimenti da parte italiana, non si è mai fatto cenno ai dati di densità di popolazione per chilometro quadrato. Ebbene, si consideri che l'Italia ha una densità pari a 191, mentre la Cina è a 136. La Germania ci supera a quota 231, ma la Francia è a 109 e la Spagna è addirittura a 81, ma restando una nota respingitrice di clandestini. Quindi, se si arrivasse ad una suddivisione degli immigrati nella Unione Europea, Francia e Spagna dovrebbero prendersene la maggior parte, avendo inoltre meno montagne e più pianure dell'Italia. Credo comunque che quanto sopra debba far capire l'impossibilità di un'immigrazione incontrollata da tutto il mondo che soffre per le guerre o la povertà e che è composta da centinaia di milioni di persone. La soluzione resta sempre l'aiuto ai loro paesi con reali programmi di sviluppo, costruendo direttamente le attività che sono necessarie, e non con soldi che vanno regolarmente nelle tasche dei dittatori locali, senza alcun beneficio per le popolazioni. Fabio. Caro Fabio, sul fatto che l'immigrazione debba essere regolamentata penso che tutti siano d'accordo, anche se c'è chi vuole una regolamentazione rigida e stretta e chi invece ritiene che sia necessario e doveroso tener conto non solo delle possibilità di chi deve accogliere, ma anche delle esigenze di chi cerca una nuova patria. Il suo riferimento alla densità di popolazione può essere utile a capire, ma secondo me non può certo essere un parametro di decisione, anche solo per il fatto che l'Italia ha molte zone montane, la Cina zone desertiche e così via. Ma non dobbiamo dimenticare che senza l'immigrazione l'Italia vedrebbe gradualmente ma rapidamente diminuire la propria popolazione e vedrebbe soprattutto aumentare fortemente la percentuale di anziani rispetto ai giovani, senza lasciare in secondo piano il fatto che gli italiani, così come gli immigrati, sono persone e non numeri. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Continuate a scriverci.